si dichiara di essere esportatori abituali di auto, esenti quindi dall'applicazione dell'IVA. Invece si vende a clienti italiani e a loro si fa pagare l'imposta tutta intera. Eccolo qui spiegato in due righe il meccanismo attraverso il quale alcune società che commerciano in auto evadono il fisco e riescono a imporsi sul mercato grazie agli sconti che non pagando l'IVA possono permettersi. Il capitano delle Fiamme Gialle, Michele Brunetti. È ritenuto comunque un settore sensibile, molto sensibile, tant'è vero che in questo caso la normativa ci aiuta ed è stata prevista e resa diciamo più aggressiva proprio perché il settore era sensibile, perché qualora la società verificata non dovesse pagare le sanzioni comminate sulla base del nostro verbale, gli acquirenti che sono altri concessionari saranno loro chiamati a rispondere dell'IVA non versata dal proprio fornitore. La normativa sarà anche aggressiva, ma non è riuscita a frenare l'appetito di due imprenditori del settore che proprio ieri sono finiti sotto indagine a Tortona, l'accusa di aver evaso le tasse per 50 milioni di euro. Di fatto la società era evasore totale. I soci hanno presentato una dichiarazione soltanto nell'anno 2008 per importi irrisori, un paio di decine di migliaia di euro. Poi dal 2008 in poi non hanno più presentato alcuna dichiarazione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.